Capitolo 2. Nel 1885, un anno dopo il fallimento del terzo progetto di legge per il suffragio femminile, mio marito si propose come candidato liberale del Parlamento a Rotherhithe, una circoscrizione di Londra sulla riva del fiume. Feci la campagna elettorale insieme a lui, parlando in pubblico e chiedendo voti sfruttando al meglio le mie possibilità. Il dottor Pankhurst era un candidato molto popolare e sarebbe stato indubbiamente eletto se non fosse stato per l'opposizione degli Home Rulers. Parnell ne era capo e la sua linea politica era di opposizione a tutti i candidati del governo. Malgrado il dottor Pankhurst fosse un convinto sostenitore dell'Home Rule, le forze di Parnell lo contrastarono duramente e così fu sconfitto. Ricordo di aver espresso una forte indignazione, ma mio marito mi fece notare che la politica di Parnell era assolutamente corretta. Con il suo piccolo partito non avrebbe mai potuto sperare di far valere i principi dell'Home Rule contro una maggioranza ostile, ma con un costante ostruzionismo riuscì a sfinire il governo e col tempo lo costrinse alla resa. Per me fu una preziosa lezione politica, di quelle che anni dopo ero destinata a mettere in pratica. L'anno successivo andammo a vivere a Londra e come al solito ci interessammo alle questioni legate al lavoro e ad altri movimenti di impegno sociale. Quello fu un anno memorabile per il grande sciopero delle donne lavoratrici delle fabbriche di fiammiferi Bryant & May. Mi gettai in questo sciopero con entusiasmo, lavorando con le ragazze e con alcune donne di spicco, tra cui la famosa Annie Besant. Lo sciopero fu un successo. Le ragazze ottennero sostanziali miglioramenti delle loro condizioni lavorative. Fu un periodo di tremenda instabilità, di forte agitazione nel mondo del lavoro, di scioperi e serrate. Fu anche un periodo in cui il più stupido spirito reazionario sembrò impossessarsi del governo e dell'autorità. L'esercito della salvezza, i socialisti, i sindacalisti, di fatto tutti gli organismi che tenevano assemblee all'aperto, furono oggetto di ripetuti attacchi. In segno di protesta contro questa politica, a Londra fu costituita la Law and Liberty League ed ebbe luogo a Trafalgar Square un immenso raduno di comizi a ruota libera, con John Burns e Cunningham Graham in qualità di oratori principali. Io fui presente a questa assemblea che si risolse in un sanguinoso scontro tra la polizia e i dimostranti. Gli scontri di Trafalgar Square sono un evento storico, ed è adesso che John Burns deve in larga parte la successiva ascesa politica. Sia John Burns sia Cunningham Graham dovettero scontrare pene carcerarie per il ruolo che ebbero negli scontri, ma ne guadagnarono in fama e fecero molto per affermare il diritto alla libertà di parola per gli uomini inglesi. Le donne inglesi stanno ancora lottando per quel diritto. Nel 1890 a Londra nacque il mio ultimo figlio. Ora avevo una famiglia di 5 bambini piccoli e per un po' fui meno attiva nel lavoro pubblico. Quando Annie Besant si ritirò dall'incarico al London School Board, mi fu chiesto di candidarmi per il posto vacante. Ma benché avessi già svolto il lavoro con soddisfazione, decisi di non accettare l'invito. L'anno dopo, tuttavia, si diede vita a una nuova associazione per il diritto di voto, la Women's Franchise League, e sentii che era mio dovere affiliarmi. La League stava preparando un nuovo progetto di legge per il suffragio, le cui premesse non avevo potuto approvare, e mi unii a vecchie amiche, tra cui la moglie di Jacob Bright, la signora Wollaston Hall-Melmy, che era un membro del London School Board, e la signora Stanton Blatch, al tempo residente in Inghilterra, nello sforzo di aggiornare il progetto di legge originario abbozzato dal dottor Pankhurst. In realtà nessuno dei progetti di legge arrivò in Parlamento entro quell'anno. Il signor, ora Lord Haldane, che era il responsabile del provvedimento, presentò una delle sue stesure. Era un progetto davvero notevole, onnicomprensivo nei suoi termini. Non solo emancipava tutte le donne, sposate, non sposate, delle classi dei proprietari immobiliari, ma le rendeva eleggibili per tutte le cariche della corona. Il progetto di legge non fu mai preso sul serio dal governo, anzi, non era stato neanche concepito con quell'intenzione, come avremmo avuto modo di scoprire in seguito. Ricordo che andai con la signora Stanton Blatch al Palazzo di Giustizia per vedere il signor Haldane protestare contro la presentazione di un provvedimento che non aveva mai avuto la più remota possibilità di passare. Ah, quel progetto, disse Haldane, è per il futuro. Tutti i loro progetti di legge sul suffragio femminile erano concepiti per il futuro, un futuro talmente lontano da essere invisibile. Già nel 1891 iniziavamo a capirlo. Comunque, fin tanto che un progetto di legge esisteva, eravamo determinate ad appoggiarlo. Perciò sollecitavamo i membri delle associazioni, distribuivamo una gran quantità di materiale informativo, organizzavamo e gestivamo assemblee. Non solo tenevamo comizi in prima persona, ma spingevamo amichevolmente i membri del Parlamento a salire sui nostri palchi. Durante una di queste assemblee, in un circolo radicale dell'East End, si tennero i discorsi di Anne Dale e di un giovanotto che lo accompagnava. Questo giovane, Sir Edward Grey, allora agli inizi della carriera, lanciò un eloquente appello in favore del suffragio femminile. Che Sir Edward Grey, nel prosieguo della sua vita, sarebbe poi diventato un nemico giurato del suffragio femminile, non deve stupire. Ho conosciuto tanti giovani inglesi che hanno iniziato la loro carriera politica come oratori pro-suffragio e in seguito sono divenuti antisuffragisti o amici rinnegati della causa. Questi giovani e ambiziosi statisti devono attirare l'attenzione in qualche maniera e sposare una causa innovativa come quella del lavoro o del suffragio femminile. Sembra un mezzo semplice per conseguire un tal fine. Bene, i nostri discorsi e il nostro fermento non furono mai diretti ad aiutare in alcun modo l'impossibile progetto di legge del signor Handale, che non andò mai oltre la prima lettura. La nostra residenza a Londra terminò nel 1893. Quell'anno tornammo nella nostra casa di Manchester e io ripresi il lavoro alle Suffrage Society. Sul mio suggerimento, i membri iniziarono ad allestire i loro primi incontri all'aperto e continuammo così finché non riuscimmo a organizzare un gran raduno che riempì la Free Trade Hall. E straripò, al punto da affollare anche una sala più piccola nelle vicinanze. Questo evento segnò l'inizio di una campagna di propaganda tra i lavoratori, un obiettivo che desideravo di conseguire da tempo. E adesso cominciavo una nuova fase della mia carriera, tanto interessante quanto avvincente, col senno di poi. Ho già detto come i nostri leader del Partito Liberale avessero consigliato alle donne di dimostrare la loro idoneità alla rappresentanza in Parlamento, lavorando negli uffici municipali, specialmente in cariche non retribuite. Un gran numero di donne aveva seguito il consiglio, impiegandosi nei comitati di pubblica assistenza, nei consigli scolastici e in altre strutture disponibili. I miei figli erano ormai abbastanza cresciuti perché li potessi lasciare nelle mani di competenti bambinaie e così io ero libera di partecipare alle attività di queste associazioni. Un anno dopo il ritorno a Manchester, avanzai la mia candidatura per il consiglio dei tutori della Poor Law. Diverse settimane prima avevo gareggiato senza successo per ottenere un posto nel consiglio scolastico. Questa volta però fui eletta, aggiudicandomi la votazione a larga maggioranza. Ritengo sia doveroso spiegare qualcosa del funzionamento della Poor Law inglese. L'obiettivo della legge consiste nell'amministrare un atto della regina Elisabetta, una delle più grandi riforme compiute da quella saggia e umana monarca. Quando Elisabetta salì al trono, trovò un'Inghilterra, la Mary England dei poeti contemporanei, in uno stato di spaventosa povertà. Orde di persone morivano letteralmente di fame nelle miserabili baracche, nelle strade eppure davanti ai cancelli del palazzo. La causa di tutta questa miseria era stata la riforma religiosa sotto Enrico VIII e la scissione da Roma della Chiesa inglese. Re Enrico, è risaputo, si appropriò di tutte le terre, le abbazie e i conventi della Chiesa e li diede come ricompensa ai nobili e ai privilegiati che avevano appoggiato la sua attività politica. Ma una volta impossessatisi delle proprietà della Chiesa, i nobili protestanti non assunsero in alcun modo le antiche responsabilità ecclesiastiche di dare alloggio ai viaggiatori, di fare la carità, di curare gli ammalati, di educare i giovani, di assistere i bambini e gli anziani. Quando i monaci e le suore vennero buttati fuori dai loro conventi, questi compiti non furono assegnati a nessun altro. Il risultato, dopo il breve regno di Edoardo VI e di quello sanguinario della regina Maria I, fu l'anarchia sociale ereditata da Elisabetta. Questa grande regina e grande donna Convinta che la responsabilità verso i poveri e i deboli debba poggiare sulla comunità, promosse un atto per consentire agli enti pubblici dei distretti di occuparsi delle condizioni dei poveri locali. Il Consiglio dei Tutori della Poor Law distribuisce ai poveri il denaro proveniente dalla Poor Rate, una tassa, e altri fondi messi a disposizione dal locale ufficio governativo, il presidente del quale è un ministro. Al momento la carica è detenuta da John Burns. Il Consiglio dei Tutori ha il controllo dell'istituto che chiamiamo il ricovero per i poveri. Conoscete senz'altro gli ospizi e i ripari per i senzatetto, ma non sono estesi come i nostri ricoveri, che sono tanti istituti in uno. Nel mio in particolare abbiamo un ospedale con 900 letti, una scuola con svariate centinaia di bambini, una fattoria e diversi laboratori. Quando assunsi l'incarico, scoprì che nel nostro distretto, Chorlton, la legge veniva applicata in maniera assai ingiusta. Il vecchio consiglio era costituito da quel genere di uomini conosciuti come contabili. Erano sì tutori, ma non dei poveri. Erano tutori dei conti e, come avrei scoperto presto, non erano molto scaltri nel badare ai soldi. Ad esempio, benché i ricoverati fossero malnutriti, notai un assurdo quanto evidente spreco di cibo. Ogni ricoverato riceveva quotidianamente una certa razione di cibo e il pane costituiva una parte di quella razione, talmente sproporzionata che difficilmente c'era qualcuno in grado di consumare tutta la sua porzione. Nella fattoria i maiali venivano allevati appositamente per consumare queste eccedenze di pane e siccome i maiali non crescono bene con una dieta a base di pane raffermo, gli animali fruttavano sul mercato molto meno dei maiali di fattoria nutriti a dovere. Io suggerii che invece di offrire una grossa porzione di pane in un unico pezzo, la pagnotta fosse tagliata a fette e cosparsa di margarina, in modo che ciascuno le prendesse quanto pensava di mangiarne. Il resto del consiglio ebbe da obiettare sulla base del fatto che i nostri poveri erano molto gelosi dei loro diritti e avrebbero sospettato che una tale innovazione celasse l'intento di privarli di una parte della loro razione. Il problema venne facilmente superato con l'idea di consultare gli stessi ricoverati prima di operare il cambiamento. Naturalmente i poveri acconsentirono e con il pane che risparmiavamo facevamo dei dolci con latte e uva passa da dare agli anziani del ricovero. Queste persone più vecchie le trovavo sedute su seggiole, senza schienale o su delle panche. Non avevano privacy, non possedevano nulla, neppure un armadietto. Le donne anziane non avevano le tasche nelle vestaglie e quindi erano costrette a tenere nel reggipetto quel poco che avevano. Subito dopo che ebbi preso il mio incarico, offrimmo agli anziani delle confortevoli sedie Windsor su cui accomodarsi e in tanti modi cercammo di rendere la loro esistenza più sopportabile. Questi, in fondo, erano piccoli miglioramenti, ma mi gratifica ripensare e ricordare quello che fummo capaci di fare per i bambini del ricovero di Manchester. La prima volta che vi entrai rimasi inorridita nel vedere delle bambine di 7 o 8 anni che sfregavano con le ginocchia le pietre fredde dei lunghi corridoi. Queste bambine erano vestite d'estate e d'inverno con indumenti di cotone leggero, scollati e a maniche corte. Di notte non indossavano nulla, visto che i pigiami erano considerati un lusso per i poveri. Il fatto che tra di loro la bronchite fosse epidemica per quasi tutto il tempo non aveva suggerito ai tutori alcun cambiamento nella foggia dei loro vestiti. C'era una scuola per bambini, ma l'insegnamento era dei più carenti. Erano abbandonati a se stessi, questi poveri innocenti, quando li incontrai per la prima volta. Nell'arco di 5 anni cambiammo il loro mondo. Avevamo comprato un terreno in campagna e avevamo costruito un sistema di piccole case per i bambini e avevamo allestito una scuola moderna con insegnanti qualificati. Avevamo anche provveduto a creare una palestra e una piscina per nuotare. Posso dire di aver fatto parte, unica donna, del comitato edilizio. Quale sia l'argomento che esorta a schierarsi contro il sistema della Poor Law inglese, ritengo che sotto quella legge non si debba applicare alcun stigma di indigenza ai bambini ospitati nei ricoveri per i poveri. Se li si tratta come poveri, saranno ovviamente sempre poveri e cresceranno come poveri, come un peso permanente della società. Ma se li considera semplicemente come bambini sotto la tutela dello Stato, assumono tutto un altro carattere. I bambini ricchi non sono impoveriti dall'essere mandati in una delle scuole pubbliche gratuite che per fortuna esistono in Inghilterra. Sono Eppure, una gran quantità di queste scuole, oggi utilizzate esclusivamente per l'educazione dei ragazzi della classe medio-alta, furono fondate sfruttando le eredità lasciate per l'istruzione dei poveri, le femmine come i maschi. La poor law inglese, se amministrata nel modo appropriato, deve restituire ai bambini delle famiglie bisognose ciò che le classi più alte hanno preso loro, una buona istruzione su basi dignitose. Il problema è, come ho intuito subito dopo aver assunto l'incarico, che nelle circostanze attuali la legge non basta a fare da sola, anche per i bambini. Tutto il lavoro per cui è stata concepita. Dovremmo avere delle nuove leggi e mi è parso subito chiaro che non possiamo sperare di averle finché le donne non avranno accesso al voto. Nel periodo in cui ho svolto il mio incarico al Consiglio e per anni da allora, i tutori donne di tutto il paese hanno lottato invano per riformare la legge allo scopo di migliorare delle condizioni che spezzano il cuore alle donne al solo guardarle, ma che a quanto pare non fanno molta impressione sugli uomini. Ho parlato delle bambine che grattavano con le ginocchia i pavimenti del ricovero. Altre erano costrette a lavori ripugnanti che suscitavano in me la più profonda compassione. In quel ricovero c'erano delle donne incinte che strofinavano i pavimenti e facevano i lavori più duri, quasi fino al giorno di mettere al mondo i loro figli. Molte di loro non erano sposate ed erano molto, molto giovani, praticamente delle ragazzine. A queste povere madri era concesso di restare in ospedale dopo il parto solo per 2 settimane. Poi dovevano scegliere se rimanere nel ricovero e guadagnarsi da vivere facendo le pulizie e altri lavori, nel qual caso venivano separate dai loro bambini, oppure andarsene. Potevano restare ed essere povere, o potevano andarsene con un bambino di 2 settimane in braccio, senza speranza, senza una casa, senza denaro, senza un posto dove vivere. Cosa ne sarebbe stato di queste ragazze e dei loro disgraziati figli? Questa domanda era alla base della richiesta dei tutori donne per una riforma di una parte della Poor Law. Quella sezione riguarda i bambini piccoli che vengono allontanati, non dai ricoveri per i poveri, ma dai genitori, e i genitori sono quasi sempre la sola madre. È da quella categoria di madri dei ricoveri, per lo più giovani serve, che le persone sconsiderate traggono il modello. A cui dovrebbero appartenere tutte le lavoratrici. È da quella categoria, più che da ogni altra, che provengono i casi di legittimità. Queste povere, giovani, serve, che al massimo possono uscire soltanto la sera, che non sono molto acculturate, che trovano tutti i sentimenti delle loro vite nei romanzetti, diventano facili prede di quelli che hanno tramato contro di loro. Queste sono le persone da cui i neonati vengono portati per l'allattamento e le madri devono pagare per il loro mantenimento. Ovviamente i bambini sono molto poco protetti. I tutori della Poor Law dovrebbero proteggerli, nominando degli ispettori che vadano a visitare le case dove i bambini vengono alloggiati. Ma dal punto di vista legale, se un uomo che rovina una ragazza effettua un unico pagamento di 20 sterline, l'alloggio diventa immune da ogni ispezione. Fintanto che un allevatore di bambini si prende un solo neonato per volta, pagate le 20 sterline, gli ispettori non possono visionare la casa. È normale che i bambini muoiono con orrenda puntualità, spesso prima ancora che siano state spese le 20 sterline, e a quel punto gli allevatori di bambini sono liberi di richiedere un'altra vittima. Per anni, come ho detto, le donne hanno tentato invano di ottenere quella piccola modifica della Poor Law per avvicinare e proteggere tutti i figli legittimi. E far sì che diventi impossibile per ogni ricca canaglia eludere future responsabilità verso il proprio bambino, solo perché ha versato quell'unica tassa. Si è cercato di farlo in tutti i modi, ma si è sempre fallito, perché coloro che si preoccupano realmente della questione sono solo donne. Credevo di essere stata una suffragista prima di diventare una tutrice della Poor Law. Ma poi ho cominciato a pensare al voto delle donne non solo come a un diritto, ma come a una disperata necessità. Sono certa che queste povere madri indifese e i loro bambini abbiano rappresentato un fattore assai potente nella mia formazione da militante. In effetti, tutte le donne con cui sono entrata in contatto al ricovero hanno contribuito alla mia formazione. Molto presto, dopo aver preso posto nel consiglio, ho visto che il valore delle donne anziane che venivano al ricovero era per molti versi superiore rispetto a quello degli uomini anziani che venivano al ricovero. Non si poteva fare a meno di notarlo. Tanto per cominciare erano più industriose, anzi, era commovente osservare la loro operosità e la loro pazienza. Le più anziane, che avevano oltre 60 e 70 anni, svolgevano gran parte dei lavori dell'istituto, si occupavano del cucito e di tutto ciò che serviva per mantenere in ordine la casa, e ben vestiti e ricoverati. Scoprì che gli anziani erano differenti. Non si riusciva a ottenere molto da loro. Erano soliti attardarsi nello spazio dove si faceva la stoppa, perché lì era consentito fumare. Ma quanto al lavoro vero, i nostri anziani ne facevano davvero poco. Cominciai a informarmi su queste donne anziane. Scoprì che la maggior parte di loro non era stata dissoluta o aveva commesso crimini, ma erano donne che avevano condotto esistenze perfettamente rispettabili, da moglie o da madri o da nubili che si guadagnavano da sole di che vivere. Molte di loro appartenevano alla categoria delle domestiche serve. Non si erano mai sposate, avevano perso il lavoro ed erano ormai in un'età in cui diventa impossibile trovare un nuovo impiego. Si erano ritrovate in quella condizione non per colpa loro, ma perché non avevano guadagnato abbastanza da mettere qualcosa da parte. La paga media delle lavoratrici in Inghilterra corrisponde a qualche penny. Con una tale miseria è già difficile campare e naturalmente è impossibile risparmiare. Chiunque conosca le condizioni in cui vivono le nostre lavoratrici sa bene che pochi di loro possono davvero sperare di mettere qualcosa da parte per la vecchiaia. In più, la lavoratrice media deve sostenere anche altre persone, oltre a se stessa. Come potrebbe risparmiare? Alcune delle nostre anziane erano sposate. Molte di loro, scoprì, erano vedove di abili artigiani che avevano ricevuto la pensione dai sindacati, ma le pensioni si erano estinte con la morte dei mariti. Queste donne, che avevano rinunciato a lavorare per se stesse, avevano lavorato per i mariti e i figli, erano rimaste senza un penny. A loro non restava niente da fare se non entrare a ricovero per i poveri. Molte erano vedove di uomini che avevano servito il proprio paese nell'esercito e in marina. Gli uomini avevano ricevuto la pensione governativa, ma le pensioni erano morte con loro e quindi le donne erano arrivate a ricovero. In futuro, spero non troveremo più tante donne rispettabili nei ricoveri inglesi. Adesso abbiamo una legge sulle pensioni di anzianità che garantisce alle donne in età avanzata, così come agli uomini, la somma di 5 scellini a settimana. Quanto serve a malapena per sopravvivere, ma abbastanza per consentire ai poveri di tenere i vecchi padri e le vecchie madri fuori dal ricovero senza affamare se stessi o i propri figli. Ma quando ero una tutrice della Poor Law, non si poteva far nulla per una donna che avesse smesso di lavorare, se non inserirla nella categoria degli indigenti. Vorrei avere spazio per raccontarvi le altre tragedie di donne a cui ho assistito mentre svolgevo quell'incarico. Nel nostro Dipartimento per il Sostegno Esterno, che esiste principalmente per i poveri di buona costituzione e le persone non autosufficienti, venne a contatto con delle vedove che lottavano disperatamente per tenere unite le loro case e le loro famiglie. La legge prometteva a queste donne un aiuto del tutto insufficiente, ma per sé e un unico figlio non offriva alcun aiuto eccetto il ricovero per i poveri. Anche se la donna aveva un figlio in grembo, veniva considerata a rigore di legge al pari di un uomo di robusta costituzione. Le donne, ci dicevano, devono stare in casa a badare ai propri figli. Io lasciavo senza parole i miei colleghi uomini dicendo loro: quando le donne avranno il diritto di voto, capiranno che le madri possono stare in casa e badare ai propri figli. Voi uomini finora lo avete reso impossibile a queste madri. Sono convinta che la donna emancipata saprà trovare molti modi per attenuare, quantomeno, la sciagura della povertà. Le donne hanno idee più concrete riguardo agli aiuti, e in particolare riguardo alla prevenzione delle ristrettezze più tremende rispetto agli uomini. Questa cosa mi colpiva tutte le volte che partecipavo ai convegni distrettuali e alle assemblee sindacali della Poor Law. Nelle nostre discussioni le donne si dimostravano molto più preparate e intraprendenti degli uomini. Ricordo due documenti che avevo redatto e che provocarono parecchie discussioni. Uno di questi riguardava i compiti dei tutori nei periodi di disoccupazione e facevo notare come il governo avesse una riserva di occupazione per gli uomini che poteva essere sempre utilizzata. Sulla nostra costa nord-occidentale abbiamo il problema della battigia che viene costantemente spazzata via. Di tanto in tanto la questione del risanamento della costa viene tirata fuori nei dibattiti, ma non ho mai sentito un uomo suggerire il recupero della costa come mezzo per fornire un aiuto all'occupazione. Nel 1898 soffrì una perdita irreparabile con la morte di mio marito. La morte avvenne all'improvviso e mi lasciò con la pesante responsabilità di badare una famiglia con dei figli, il più grande dei quali appena 17enne. Rassegnai le dimissioni dal consiglio dei tutori e fui immediatamente assunta per un impiego salariato al registro delle nascite e delle morti di Manchester. Tenevamo gli archivi delle nascite, delle morti e dei matrimoni in Inghilterra, ma dal momento che una legge stabilisce che quest'ultimo registro debba contenere le parole persona di sesso maschile, una donna non può essere incaricata di registrare i matrimoni. Il capo di questo dipartimento del governo è il segretario generale, con gli uffici alla Somerset House di Londra, dove vengono convogliate tutte le statistiche fondamentali e archiviati i documenti. Rientrava nei miei compiti di archivista delle nascite e delle morti e agire da capo dell'ufficio dei censimenti del mio distretto. Ero obbligata a ricevere tutti gli attestati di nascita e di morte, ad archiviarli e a inoltrare i miei registri ogni trimestre all'ufficio del segretario generale. Il mio distretto era in un quartiere operaio e per questa ragione istituii un orario serale dell'ufficio 2 volte alla settimana. Era emozionante vedere quanto fossero contente le donne di avere un segretario donna a cui rivolgersi. Mi raccontavano le loro storie, storie talvolta terribili, ed erano commoventi con quella loro paziente rassegnataria di povertà. Anche dopo l'esperienza al consiglio dei tutori, ero continuamente scandalizzata dallo scarso rispetto che il mondo riservava alle donne e ai bambini. C'erano ragazzine di 13 anni che venivano in ufficio per registrare la nascita dei loro figli, ovviamente illegittimi. In molti di questi casi scoprivo che il padre della ragazza o qualche parente prossimo maschio era il responsabile. Nella maggior parte dei casi non c'era niente che si potesse fare. In Inghilterra l'età del consenso è 16 anni, ma un uomo può sempre affermare di aver pensato che la ragazza avesse più di 16 anni. Nel periodo in cui mantenni quell'impiego, una giovanissima madre di un figlio illegittimo non seppe proteggere il suo bambino, che morì. La ragazza fu accusata di omicidio e condannata a morte. In seguito la pena fu commutata, è vero, ma l'infelice ragazzina visse l'orribile esperienza del processo della condanna, di venire appesa per il collo, finché non sopraggiunga la morte. Il disgraziato, che dal punto di vista della giustizia era il vero assassino del bimbo, non ricevette alcuna punizione. Ebbi bisogno di una sola altra esperienza dopo questa. Solo un altro contatto con la vita dei miei tempi e con la condizione delle donne, per convincermi che la civilizzazione, se mai progredirà in futuro, lo farà grazie alle donne, donne libere dalle pastoie politiche, donne nella piena facoltà di svolgere il loro ruolo nella società. Nel 1900 mi fu proposto di candidarmi per il Consiglio Scolastico di Manchester. Le scuole allora erano regolate da vecchie leggi e i consigli scolastici erano organismi molto attivi. Amministravano in base alla legge sull'educazione elementare, compravano le sedi delle scuole, costruivano gli edifici e retribuivano i docenti. Il programma scolastico e l'offerta formativa venivano stabiliti dal Consiglio dell'Educazione, che fa parte del governo centrale. Era assurdo, ovviamente. Un ente di base a Londra non aveva alcuna possibilità di soddisfare i bisogni di ragazzi e ragazze nelle parti più remote dell'Inghilterra, ma funzionava così. In qualità di membro del consiglio scolastico, mi resi subito conto che gli insegnanti, lavoratori del più alto grado, erano nell'identica posizione dei lavoratori dei livelli più bassi. In sostanza, gli uomini avevano tutti i vantaggi. I docenti avevano un rappresentante nel consiglio d'istituto. Naturalmente si trattava di un insegnante maschio e altrettanto ovviamente dava la priorità agli interessi degli insegnanti maschi. I docenti maschi godevano di salari più alti delle docenti donne, anche se molte delle donne, oltre a regolare il lavoro in classe, dovevano insegnare cucito e scienze domestiche. Non ricevevano extra per la loro attività extra. Malgrado questi oneri supplementari e malgrado i salari più bassi, constatai che le donne ponevano grande attenzione nei propri compiti e badavano i bambini molto più di quanto facevano gli uomini. Era inverno quando ci fu una grande ondata di povertà e disoccupazione a Manchester. Scoprì che le insegnanti donne spendevano le loro esili paghe per assicurare pasti regolari ai bambini bisognosi e dedicavano il tempo libero a servirli in tavola e ad accertarsi che fossero nutriti a dovere. Mi dicevano chiaro e tondo: i piccoli bisogni quotidiani sono messi troppo male perché possano fare i compiti. Dobbiamo nutrirli prima di poterli istruire. Bene, anziché verificare come le donne si preoccupassero delle scuole e degli alunni più degli uomini, e anziché dar loro maggiori poteri nel sistema formativo, nel 1900 il Parlamento inglese varò una legge che sottraeva completamente l'educazione alle donne. Tale legge abolì del tutto il consiglio d'istituto e trasferì l'amministrazione delle scuole alle municipalità. Alcune giunte comunali già in precedenza avevano fatto delle buone cose per la formazione professionale. Quella di Manchester aveva costruito un magnifico istituto professionale e adesso le giunte prendevano il controllo totale sia della scuola primaria sia di quella secondaria. La legge stabiliva che le giunte comunali cooptassero almeno una donna per i loro consigli scolastici. Manchester cooptò 4 donne e su forte raccomandazione del Partito Laburista io fui una delle prescelte. Su loro pressante richiesta fui nominata al Comitato dell'Istruzione Professionale, unica donna ammessa al Comitato. Appresi che l'Istituto Professionale di Manchester, reputato il secondo migliore d'Europa, che spendeva migliaia di sterline all'anno per la formazione tecnica, non aveva praticamente fondi per la formazione femminile. Pure nei corsi a cui avrebbero potuto partecipare tranquillamente, corsi di pasticceria e panificazione simili, le ragazze venivano escluse perché le associazioni di categoria maschili si opponevano alla loro formazione per questo tipo di lavoro qualificato. Mi fu presto chiaro che gli uomini consideravano le donne come una categoria di serve della comunità e che le donne erano destinate a rimanere in questo rango servile finché non se ne fossero sollevate da sole. In quel periodo mi chiedevo spesso che cosa si poteva fare. Avevo aderito al Partito Laburista, sperando che dai suoi comitati potesse venire fuori qualcosa di buono, qualche appello per l'emancipazione delle donne che i politici non avrebbero potuto ignorare. Non ne venne niente. In questi anni le mie figlie sono cresciute, per tutta la vita si sono interessate al suffragio femminile. Christabel e Silvia, da bambine, mi pregavano di portarle alle assemblee. Nelle nostre sale riunioni davano una mano in qualsiasi modo in cui può darla un bambino. Mentre crescevano parlavano spesso del suffragio e delle volte restavo a bocca aperta per la loro candida fiducia nella prospettiva del successo del movimento, che per loro era sicuro. Un giorno Christabel mi stupì con una considerazione. Da quant'è che voi donne tentate di ottenere il voto? Per quanto mi riguarda, ho intenzione di prendermelo. C'era, riflettevo io, qualche differenza fra lottare per il voto e prenderselo. Un vecchio proverbio francese dice: se il giovane sapesse, se il vecchio potesse. Mi resi conto che se i sostenitori più anziani del suffragio fossero riusciti in qualche modo a unire le forze con i suffragisti giovani, instancabili e intraprendenti, il movimento si sarebbe risvegliato e avrebbe trovato nuovi sbocchi. Perciò, io e le mie figlie ci impegniamo a cercare un modo per dar vita a quell'unione di giovani e vecchi, che avrebbe suggerito metodi nuovi, indicato nuove strade. Alla fine fummo convinte di aver trovato quel modo.